Radio 24 Reportage. Trasformare la società senza spezzare il filo rosso della tradizione. Alternando liberalizzazione e repressione, Deng Xiaoping ha trasformato la Cina da regime socialista a regime ipercapitalista, senza mai dover dichiarare una vera e propria spaccatura tra i due mondi, tra il presente e il suo passato. Oggi, che l'armonia è assurda parola d'ordine, la sfida si gioca da un lato sul fronte delle rivendicazioni di autonomia sollevate ai confini e naturalmente nelle grandi città, dove ricchi, aspiranti tali e poveri in canna incrociano ogni giorno i loro destini, i loro sentieri, i loro sogni, le loro ambizioni. Within the Chinese nation, you know, sul fronte delle autonomie, spiega il professor Ding Wei, è in corso una partita delicata. Noi cinesi abbiamo una sola nazione, ma abbiamo 56 gruppi etnici. E purtroppo nella lingua cinese corrente, quando si parla di gruppi etnici o di nazioni, si usa esattamente lo stesso termine, che vuol dire gente. Il problema dunque è quello di come riuscire a integrare 56 entità nazionali differenti. Abbiamo visto chiaramente quali sono i limiti del processo corrente. Chi esprime un desiderio di autonomia rifiuta il processo di integrazione. Non è la mancanza di democrazia che alimenta il desiderio di autonomia dei tibetani o degli uiguri, è piuttosto il diffuso senso di ineguaglianza delle possibilità, un sentimento diffuso e pericoloso con cui il governo centrale deve fare i conti. I think the root of social conflict usually Shanghai is the same as other places, right? La grande città è per sua natura il luogo dove si confrontano gli elementi suscettibili di generare tensioni nella società. Fenomeni migratori, idee, pressioni, contraddizioni si raccolgono nella dinamica dello spazio urbano. È qui che la gente impara veramente a misurare il proprio benessere. È qui che scopre la fine dell'egualitarismo, l'ansia della posizione, quella legata al rischio di perdere quanto è stata capace di raggiungere. E direi che in questo senso la città di Shanghai non è diversa da molte altre città del mondo. Il professor Peng Bo studia le dinamiche sociali all'Università di Shanghai nell'ambito del Forum Europa-Cina, anima il gruppo di lavoro sulla partecipazione sociale nell'amministrazione locale, facendo interagire le esperienze di vicinato in città europee come Lione e Berlino e quelle che vengono avviate nella comunità di Yinyang, nel sottodistretto di Yangpu, una zona semicentrale della grande Shanghai. But another maybe some reason are quite special in this country, not only Shanghai but in this country. More Chinese. Yeah, more Chinese style. Da un'altra parte c'è un discorso più cinese che riguarda in maniera specifica il modo in cui l'amministrazione interviene sull'economia della città e l'impatto che le decisioni prese a livello locale assumono nella vita quotidiana della popolazione. Facciamo l'esempio della Piazza dei Cinque Angoli, qui a Shanghai. Ancora pochi anni fa, tutta quella zona era una distesa di Hutong abitata da famiglie operaie a medio e basso reddito. L'amministrazione cittadina l'ha trasformata in un grande progetto urbano rivolto al commercio e ai servizi, e inevitabilmente alle famiglie più agiate. Un progetto che ha trasferito migliaia di persone nella grande periferia urbana, ma che dal punto di vista dell'amministrazione locale può senz'altro essere definito un grande successo. Nuovi shopping mall, luccicanti centri commerciali spuntano come funghi. L'architettura urbana della grande città cinese prefigura nelle sue forme la società del benessere per tutti, che non essendo ovviamente una realtà, costringe intanto migliaia di famiglie di impiegati, oltre che di operai e pensionati, ad allontanarsi verso l'immensa periferia che ha da tempo fagocitato anche le nuove tangenziali. del tutto disarmata di fronte ai progetti di trasformazione urbana che impazzano in diversi quartieri della città, la gente comune sperimenta i dolori del capitalismo osservando da lontano i grattacieli di Pudong, ai piedi dei quali, lungo la sponda occidentale del fiume, cresce notte e giorno la città dell'Expo 2010. Shanghai sembra quasi voler rivedere e ridarsi quella immagine anni 30, quella immagine di città cosmopolita, così ben descritta da Bamboo Hearst. È una città babelica, dove le linee architettoniche, le razze, le religioni, le competizioni commerciali si scontravano e si sovrapponevano. C'erano quartieri in stile, non so, inglese, altri in stile tipo boulevard parigini. Bamboo Hearst, nata a Shanghai, cinese di padre italiano, un giorno di quegli anni tumultuosi. Un giorno imprecisato, destino delle figlie femmine in un paese in cui era facile chiamarsi seconda figlia, terza figlia e così via. La sua Shanghai ha molte curiose somiglianze con quella di oggi. La Parigi dell'Oriente, Shanghai era. Era la Parigi d'Oriente. Una città di grande cultura, di grande fascino di e grande anche... grande fascino, perfino Paul Claudel, che in quegli anni, quando descrive le fumerie d'oppio, sono immerse nel fumo blu, dove si sentono e si respirano un odore di castagna bruciata, un profumo pesante, potente, persistente, forte come il colpo di un gong. Un mondo fragile, effimero, spazzato via dalla rivoluzione di un partito, quello comunista, che proprio a Shanghai era stato fondato nel 1921. Io mi ricordo che nel mio collegio sono arrivati gli uomini vestiti di nero. Dalle suore capivamo che hanno vinto i comunisti, e le suore, sai, io mi ricorderò sempre, e venivano in collegio, guardavano dei libri, contavano. Gli occidentali, le suore, poi insomma, non hanno capito perché esiste il comunismo in Cina. Il comunismo è esistito in Cina per la fame, ecco, per la ciotola di riso. Perché la Cina, pur essendo grande, la parte, diciamo, coltivabile della Cina è solo un quinto, perché la Cina è montagna e fiumi e paludi. Io ho vissuto con i contadini, io ho vissuto la parte miserabile della vita che questi poveri contadini conducevano. Allora, per quello che io dico, sono ben felice che sia stato Mao Zedong. Durante l'invasione giapponese mi nascondevano, ero svolata nella campagna cinese. Quindi io ho visto come lavoravano, arrivavano i monsoni, portavano via tutto, arrivavano le cavalette, non c'era più niente da mangiare. Io questo ho visto, la buona terra, ecco. Il professor Bo è convinto che lo scambio di esperienze con l'Europa possa essere particolarmente prezioso per permettere alla Cina di affrontare questa fase di grandi trasformazioni. But they are also another kind of migrant. They are... Il governo locale è il motore della trasformazione urbana. La comunità locale, i residenti invece, restano nell'ombra. La lezione che possiamo fare nostra dell'esperienza europea è proprio quella di incoraggiare la partecipazione a livello locale della popolazione residente, proprio come accade a Berlino o a Lione. Non si tratta solamente di risparmiare nel processo, ma soprattutto di accrescere l'identità e l'identificazione dei residenti con la loro comunità. Il nostro modello sociale ci ha insegnato che l'amministrazione locale si impegna a darci il meglio. Il messaggio al cittadino è: noi ti aiutiamo, ti diamo i servizi e tu però stai buono e non alzare la voce. Ora però è proprio dal centro che arriva un segnale diverso. Sentieri tortuosi che sembrano a volte perdersi nella prudenza delle parole. D'altra parte, capire la Cina al di là della sua sfavillante modernità è cosa complessa, compito da filosofi. L'autorevole sinologo François Julien attinge al taoismo per spiegare come ciò che vediamo da Occidente appaia molto diverso se osservato da Oriente, e scrive: sappiamo che uno dei temi più importanti del pensiero cinese, di qualsiasi scuola, ma soprattutto del taoismo, è quello del non agire, che non può essere inteso come disimpegno e ancor meno come rinuncia o passività. Se il saggio o lo stratega non agisce, è perché preferisce trasformare, fare cioè in modo che, poco a poco, con il suo influsso, la situazione evolva nel senso desiderato. Ecco dunque che nella mentalità cinese la ricerca della trasformazione si manifesta precisamente come il contrario dell'azione.